360 ore. Milano trema ancora, perché aspetta la svolta, fa una volta buona. Milano, fatti sentire! Due mani, Milano! Sì! Aspetta, fammi prendere un attimo fiato, dai. Tanto... già tempo c'è andato, io comincio ad avere la mia età. Bella ragazzi, è un piacere essere qui. Il 25 aprile è una data importante. Innanzitutto perché è il mio onomastico, quindi fatemi gli auguri. Grazie. Vabbè, questa roba fa ridere. Prima ero là dietro, mi ha chiamato mia mamma, mi fa, oh, ciao, auguri. Ho detto, bella, hai letto che ci sono i cartelli che suona i partigiani in ogni quartiere. No, ma va, veramente era per l'onomastico. Vabbè, ho detto, bella. Comunque, grazie. A parte questa stronzata da boomer, è uscito da poco, fammelo dire, siamo qua in tanti, a occhio, a meno che non sia l'intelligenza artificiale. È uscito il mio nuovo disco, si chiama Marcos, quindi se andate sulle piattaforme digitali scrivete Marcos, molto autoreferenziale devo dire, trovate il subcomandante, oggi siamo tutti vestiti da il mio disco e quindi lo potete sentire, quindi vabbè, basta chiacchiere, vi racconto una storia. Per chi la sa, per chi non la sa, la storia di due ragazzi di nome Fausto e Iaio. Rest in peace. Non ho 7-8 piedi e mi di piombo. La tele passa le mie storie ignara del mio sotto. La foto. Uno sente il botto in fiammancinelli, chiunque cieco, muto e sordo. A terra due ragazzi del Leon Cavallo. Rosso il sangue, nera la firma sul giallo. Fausto e Iaio, c'è chi li conosce ormai da un annetto. Indagavano sul narcotraffico in Casoretto. Morti innocenti ancora in età da scuola. Trucidati a pochi passi da un'aiuola. In mezzo ci sta l'uomo nero venuto da Roma. Giustizia resta ancora un nodo strozzato in gola. Milano ormai è una gabbia, imprigionati nei palazzi. Non vediamo l'orizzonte, abbiamo sempre meno spazi. La rivoluzione è impossibile a farsi, da quando l'asfalto ha fatto sparire i sassi. E dalle strade di Milano su erano su, solo ragazzi su, Fausto e Iaio. Il silenzio su, assurdo che seguì lo sparo su, un po' come una puntata dei Soprano. Dalle strade di Milano erano solo ragazzi Fausto e Iaio. Il silenzio assurdo che seguì lo sparo, un po' come una puntata di Soprano. L'eroina uccide la gioventù per strada, il mistero del covo davanti casa, le verità nascoste sotto a pile di contanti. La speranza muore di nuovo a 18 anni, colpirne due per educarne 100 come Mao. Ma la memoria impressa sui muri in via Watteau. Schierani neri e il paese dei misteri, una lunga scia di sangue mette insieme l'oggi e ieri. Ora che Milano è sempre più città di lupi, perché tutti i ribelli li ha sfrattati o distrutti. Strade lastricate di 'ndrangheta e di coca, al posto della pergola c'è un locale alla moda. Il mio più grande sogno è che un giorno mi sveglio e ritrovo le trattorie col meno fisso a 10 euro. La buona forchettata, le canzoni della mala, come siamo arrivati a Fontana e Beppe Sala. Dalle strade di Milano erano solo ragazzi Fausto e Iaio. Il silenzio assurdo che seguì lo sparo, su un po' come la puntata di Soprano. Dalle strade di Milano erano solo ragazzi Fausto e Iaio. Il silenzio assurdo che seguì lo sparo, un po' come una puntata dei Soprano. Bella Milano! Fammi sentire un urlo anche per il mio DJ Virus qua in console insieme a me a Milano. Big up Chiesa Rossa. Ok, il prossimo pezzo è per chi non dimentica e chi c'era a luglio nel 2001. Ha preso il mio nome, ma io non c'ero più. Condannato a morte da una divisa blu. Nella terra del non vedo, non sento, non parlo. Ero solo un ragazzo, mi chiamavo Carlo. La riunione di otto grandi per decidere sul mondo. Era tutto pianificato, ma qualcosa è andato storto. Questa è davvero la chiavi democrazia. Dopo che hai sentito lo sparo, dopo che hai visto Diaz, apri gli occhi, solo allora capirai che qui c'è chi quando sbaglia non pagherà mai. Non cambia molto fra Bolzaneto e Venezuela. Quella è c'è che sa l'alfabeto a malapena. Out of it feel, se la gente a fare fuoco, cronache di resistenza come ai tempi del logo. Vieni a vedere, fatti un giro nel quartiere, come misera la vita negli abusi di potere. Continueremo a vivere nel vento, lo sparo non ha ucciso noi, ma un movimento si è liberato. Mani su, perdona su, su. Si può morire giovani e vivere per sempre. Continueremo a vivere nel vento, lo sparo non ha ucciso noi, ma un movimento che ha rinunciato a tutto per non avere niente e vivere per sempre. Quando hai vent'anni uscire è quasi un obbligo, un dovere. Giorgiana aveva il mito delle pantere nere, la nascita del punk e delle radio libere. Il futuro in mano nostra ed è lì solo da scrivere. Erano giorni di utopie e speranze, la testa piena di idee e sempre vuote le tasche. Tutto è andato in fumo in quell'attimo infinito. Qualcuno ha detto pure trattarsi di fuoco amico. Io sono la viaggiatrice che viene dal basso fondo. Stasera è così bello vedere il sole al tramonto. Volevamo davvero cambiare il mondo, ma tanti sono stati cambiati dal soldo. C'erano Radio Alice, gli attentati della CIA, voi con le tre dita alzate insieme all'autonomia. Le manifestazioni coi bulloni e con gli spari, prima che diventassimo tutti dei paninari. Continueremo a vivere nel vento, fammi vedere le mani, Milano. Viso noi, ma un movimento tutto per non avere niente e vivere per sempre. Continueremo a vivere nel vento, lo sparo non ha ucciso noi, ma un movimento che ha rinunciato a tutto per non avere niente. Si può morire giovani e vivere per sempre. Ancora continueremo a vivere nel vento, lo sparo non ha ucciso noi, ma un movimento che ha rinunciato a tutto per non avere niente. Si può morire giovani e vivere per sempre. Continueremo a vivere nel vento, lo sparo non ha ucciso noi, ma un movimento che ha rinunciato a tutto per non avere niente. Si può morire giovani e vivere per sempre. Sì, grazie. Grazie mille. Adesso abbiamo un pezzo un po' più leggero. Io lo dedico strettamente a tutti, ma in particolare a mio fratello Fabiano, che suonerà dopo ed è qua sotto. E parla di chi ha la passione per il calcio, in particolare quella, la Serie A degli anni 90. Dai, parliamo un pochino. Matti Drang, preparati perché questo è il tuo fucking turno. Quando vuoi, virus. Vediamo chi si ricorda tutti questi riferimenti. Erano gli anni che andava di moda il parkour, crack si scappava in Tunisia modello parkour. La Serie A con il girone da 18, sette sorelle da fare invidia al mondo. Io in BMX sfrecciavo per i viali, l'Italia si fermava quando scattava Pantani. Le coppe Muglia, scarpe nere di rigore, a Pasadena maledetto quel rigore. Palla rossa con la neve, partite mai sospese, i presidenti pazzi, Gauci e Matarese. Le maglie nei pantaloni, tutti a parte un uomo, quello che alzava il braccio per chiamare fuori gioco. Oggi tutti a dire vengo dagli anni 90, ma io c'ero davvero in trasferta Brescia-Atalanta. Te li ricordi gli schiaffi che ha preso tutta, le cannonate che tirava Battistuta? Erano gli anni 90, la seconda metà, sempre in due sopra quel booster, tutta mia la città, senza il problema del lavoro, un deca che valeva oro. Suo tiro supersonico, la corsa di Mazzone, la sedia di Mondonico. Adesso è tutto business, mino le sue cagnotte. Tieniti la Superlega e ridammi la Coppa Coppe. A Parma nevio scala, in Colombia Valderrama. L'oratorio 100 contro 100 e chi si trova para. Sciagurato che è un bimbo al giorno d'oggi, non conoscerà la favola di Volpi e Poggi. Quanto mi mancano le estati con mio padre, le telecronache di Pizzula al mondiale. Vorrei tornare indietro, beh, se si potesse. Fortuna che in taverna migliaia di VHS. Se, per rivedere in pista Senna, ricomprerei le birre sotto marca del Derby. Ma il tempo va veloce, pensare che si interrompa è come credere alle bombe di Maurizio. Erano gli anni 90, la seconda metà, sempre due sopra quel booster, tutto Milano Massive Rock, è la prima volta che si esibisce dal vivo. C'hai voglia di farla un'altra volta a cappella? Era? Faceva così. Erano gli anni 90, la seconda metà. Sempre in due sopra quel booster, tutta mia la città. Senza il problema del lavoro, un deca che valeva oro. Gli stadi pieni tutto l'anno ed estate il festival bar. Bella! Grandissimo. Tra l'altro non avevo mai ragionato sull'aspetto no euro e contro la politica monetaria deflazionistica di questo pezzo. Un deca che valeva oro. Va bene. Ciao a tutti, grazie. Grande Massimo. Vediamo, vai, non lo so, vai. Chi la sa? Porta romana, bella porta romana. Dalle ragazzine che te la danno. Oh, questo è Danny Svampa, chi è che lo conosce? Questo è Milano, su, ragazzi, dai! Su! Chi se la ricorda questa? Minchia, quanto è alta quell'erba lì? O sembra più di stare a Roma. Nato sul finire del decennio dell'ero, educato a mala informazione, oggi scrivo il vero, la storia del mio paese, tonnellate di tritolo, barricate nelle piazze, l'omicidio spagnolo, le rivolte nelle carceri e le hit di Rick Ross, la polizia che abusa è collusa con il boss, questi sono i miei argomenti, nessuno fa le mie veci, vado avanti a raccontarli pure se ascoltano in dieci, la gente che mi spinge vuole fuoco in ogni testo, i megafoni al concerto, il cori e tutto il resto, a qualcuno non va bene, mettiti in censura, l'impero vuole farmi fuori, io non ho paura, infamarmi dalla rete è diventato il buon mestiere, ma come i finti ultra dal vivo non ti fai vedere, io sto con i miei amici con le sciarpe rosso nere, i tuoi amici a distintivi gradi e tutte rossiano, non reggi il mio flow col D.O.G.O, inferno nella city come gli USA Saigon, audio molotov nell'auto e l'iPod, la rima distordisce. Adesso come tutti su, non reggi il mio flow col D.O.G.O, inferno nella city come gli USA Saigon, audio molotov nell'auto e l'iPod, la rima distordisce tipo 500 volt. Io parlo di tutti quelli fatti fuori da quei cani, Stefano Cucchi, Aldrovandi, Giuliani, il Parlamento vieta il film se in una scena c'è chi snasa e c'è più bamba lì che sulla scrivania di Montana. Tu lo chiami buon costume, io la chiamo ipocrisia e sono immune, zio, da questa malattia. Se parlo di polizia è perché la vedo in ogni posto, ma il senso di giustizia ancora non lo conosco. Troppo ricchi e troppo poveri, la verità è l'inganno, mille differenze che fra poco esploderanno. Ho avuto un papa nazista, un presidente mafioso, ed è uno scandalo perché per nessuno è scandaloso. Sulla traccia rime fulmini, atmosfera di tempesta, vieni a sentirmi ai live che la suono con l'orchestra. È una merda, rivoluzione da una gran cassa, guardi e ladri, io sto dalla parte di Vallanzasca. Non reggi il mio flow col D.O.G.O, inferno nella city come gli USA Saigon, audio molotov nell'auto e l'iPod, la rima ti stordisce come 500 volt. Non reggi il mio flow col D.O.G.O, inferno nella city come gli USA Saigon, audio molotov nell'auto e l'iPod, la rima ti stordisce come 500 volt. Sei Milano, ne vuoi ancora sì o no? Qui siamo addirittura d'arrivo. Il prossimo pezzo, oggi è il 25 aprile, quindi è bene ricordare tutta la merda che è successa prima, ma senza dimenticarsi di tutto quello che è accaduto dopo. Questo pezzo si chiama Tutto il marcio della Repubblica e parla di tutto il marcio della Repubblica. Lo puoi sentire su Marcos. Ascolta le parole, fra. Ho poco più di 70 anni e li porto piuttosto male. Ho venduto l'anima a delle spie americane. giorno d'aprile in piazza le Loreto. Ho rubato l'oro a quell'infame che avevano preso. A inizio lì la mia collezione di misteri. Chi è che ha sparato a piana degli albanesi? Da piazza Statuto a piazza Fontana. Lo Stato nell'occupa, ma la mano di chi spara. Dal ditino di Sciabola è quello delle manette. Gladio, la P2 e la Milano delle mazzette. Ci hanno provato più volte a farmi a pezzi, come hanno fatto in Grecia col colonnelli. Carabinieri, ex fascisti, licio Gelli. Io sono ancora qua, ma in fascia le porto i segni. Tutto il marcio della Repubblica. Tutto il marcio della Repubblica. Tutto il marcio della Repubblica. Tutto il marcio della Repubblica. L'autunno qui era caldo anche prima dei crema shade. Incidenti ad alta quota, Ustica e Mattei. Lo scoop di chi l'ha visto in piazza Santa Pollinare. C'è il simbolo di Cristo dietro ad ogni strage. Amen. Di quel sequestro sentirai mille storie. Perché ho fatto sparire il libro delle memorie. Via. Ho chiamato brutta gente per trovarlo, ma alla fine non se n'è fatto niente, l'ho lasciato morire. Via. Ho avuto il piombo, il fango e la repressione. Le bombe sopra i treni, le bombe alla stazione. La lotta armata dopo gli anni del riflusso. La TV privata dei figli di fusto. Ho amici con impicci in situazioni poco chiare. Chi? Tony Chicchiarelli e Stefano Delle Chiane. All'ombra del cupolone di Roma Capitale si incontrano un massone, un gangster e un cardinale. Tutto il marcio della Repubblica. Tutto il marcio della Repubblica. Tutto il marcio della Repubblica. Tutto il marcio della Repubblica. La banca di Dio, cash. La bamba da Rio. Puttane in Christian Dior, Gotti offshore, Gotti io. Come il Papa che mandava a solidarnoci. Fondi neri ripuliti di qualche boss. Gli anni 90, si fu l'Italia. Le bustarelle, la metro gialla. Fugge Bettino con il bottino. Fatta ministra dopo un bocchino. In via D'Amelio che aspetto il detonatore. Chi dello Stato parlava con Corleone? Troppe domande rimaste senza risposta. Che qualcuno si è portato nella gobba della tomba. Ricordo a Genova il sangue in mezzo alla strada. Era una macelleria messicana. Nipoti del regime, figli di Madama. Questa sono io, Repubblica Italiana. Fanculo alla maggioranza, soprattutto a questa maggioranza. Vi saluto con questo. Molti mi danno del fallito, di quello che ho perso il treno. Ma non ci sono salito io e non mi hanno mai compreso. Compreso chi sta al doppio, oggi piace agli italiani. Quello che ho scritto io lo capiranno i tuoi nipoti. Dando la colpa ai giovani per tutto ciò che accade. Ma non è colpa loro se il mondo va a puttane. Nati già indebitati dai padri senza diritti. Adesso devono anche stare a casa soli e zitti. Balsamati, stanchi e sottopagati. Gli eroi centri sociali oggi applaudono Draghi. Abituati alle bugie, tanto che non ci fai più caso. Come chi diceva mai col partito di Bibbiano. Come chi diceva stop col secondo mandato. Si vincono le elezioni sull'odio per l'immigrato. Donne coi cazzi e vasori vasi. Talmente messi male che c'è chi rimpiange casi. Non conta ciò che è vero ma solo ciò che funziona. Popolo di sedentari che ambiscono a una poltrona. Io voglio morire presto, non diventare vecchio. Rompendo il cazzo a tutti, egoista e cattivo dentro. L'industria culturale, un uomo impersonale. Gli standard di bellezza della donna ideale. La ragione strumentale che ha prodotto velenosi. Tu ti vedi adeguare o sei dentro o sei fuori. La dittatura delle view, dei like e niente più. Tu sappi che hanno 12 follower di Gesù. Quindi se ti senti diverso e non ti ascolta nessuno, vai avanti lo stesso e mandali a fare il culo. Se mi fossi schierato a sinistra o destra, non fossi uscito pazzo con ultra se farà butti. Oggi per qualcuno sarei visto come caparezza e non stare sul cazzo, più o meno a tutti. A me importa essere libero, costo di essere povero. Dire quello che mi va, fa culo all'autorità. Non ho paura di restare solo in mutande. Non ho spalle coperte, ma ho le spalle larghe. Corpi di tatuaggi, stai sfidando i piani alti. Il lavoro uccide l'uomo, non chiederei quei capi. Non è più cosa mia questa assenza di umano. Sempre di più all'età di Cristo, con la stessa rabbia che avevo nel primo disco. Non penso che abbia torto chi scrisse l'hip hop è morto. Se il genere più ascoltato qualcosa è andato storto. In musica, in politica, nessuna militanza. Ma come disse Benigni, fa culo alla maggioranza. Sì, grazie Milano. Ai, sono fottutamente fuori. Alla prossima, viva il 25 aprile. Bella lì, Ted B. Bella lì, grazie. Grazie Ted B. Stiamo recuperando sulla cascaletta. Sì, però adesso devono infilare una spina. Dopo quello che è successo abbiamo un brivido dentro. Facciamo un... Dai, dai, dai. Vai, vai, ancora, vai, vai, libero, va bene, ancora. Andiamo. Dai, dai, andiamo. Fatto. Siamo libere. Fatto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Un momento femminile, Paola. Sì. Finalmente un po', cioè ce ne sono già state di donne sul palco, ma non sono mai abbastanza, mettiamola mai così. Mai abbastanza, ne vogliamo sempre di più. Sta per salire sul palco una rappresentante di, non una di meno, vieni Miriam. Miriam con noi, eccola, grande applauso. Ciao a tutti. Miriam è la crew. Allora, non poteva mancare non una di meno su questo palco. Intanto ci volete un po' ricordare il ruolo delle staffette nella Resistenza. Sì, allora, credo che tutte le persone qui sanno cos'è il movimento Non Una Di Meno, che è una rete globale che lotta per la fine del patriarcato e in realtà è una lotta transfemminista intersezionale che quindi tocca davvero tanti ambiti. E questo è uno dei motivi per cui noi siamo qua oggi. Infatti molto spesso nella storia non si parla abbastanza delle donne partigiane, che non sono solo staffette ma sono state anche proprio combattenti e sono circa 70.000 quelle che hanno partecipato durante la Resistenza, e quindi oggi ci sembrava necessario parlarne e dire come la lotta che hanno fatto negli anni della Resistenza era una lotta antifascista e antisessista per emanciparsi anche da tutti quei ruoli che c'erano negli anni 50. Adesso sono diversi, ma la lotta antifascista e antisessista rimane e noi la portiamo avanti in questo modo, e stando qua. C'è anche una cosa che chiede a gran voce, grazie, facciamo un applauso. Parole sante. C'è anche una cosa importante che chiede il movimento transfemminista, cioè di prendere una posizione chiara rispetto alla Palestina, cosa che stiamo facendo evidentemente anche con questo palco e con tutte le persone presenti. Assolutamente, mi hai tolto le parole di bocca. Oggi tutto partigiani, ogni quartiere è anche per la Palestina, e noi come Non Una Di Meno Milano prendiamo proprio una chiara posizione su questo, nel senso... Non si può essere transfemministe senza considerare la lotta antirazzista, anticolonialista e di sicuro antisionista, se quello che vediamo che sta succedendo. Quindi noi esprimiamo la nostra totale solidarietà con tutte le donne palestinesi e le persone palestinesi e con la Resistenza palestinese, e condanniamo il genocidio che stanno portando avanti. E non abbiamo paura di usare questa parola, genocidio. No, assolutamente. E in Italia... In Italia? In Italia è un po' un disastro, a parte queste situazioni che sono stupende. E in particolare noi in realtà volevamo dire due cose. La prima è che il governo che abbiamo adesso è un governo chiaramente neofascista, che porta avanti sia una politica di guerra, e tra l'altro l'Italia dal 7 ottobre ha aumentato le armi da Israele, però anche una politica molto... antiabortista, pro-life, quindi è un po' una contraddizione che da persone che in teoria sono pro-life, quindi diritto alla vita, così, mandano poi delle bombe che uccidono bambini, bambine, donne, uomini. È una bella contraddizione, e quindi secondo noi se davvero fossero per la vita sarebbero contro le guerre, invece come sappiamo le guerre sono sia guerre sui corpi che guerre sui territori. E credo che questo governo lo rappresenti appieno come concetto. Noi ci uniamo a Miriam, giù le mani dai nostri Miriam, corpi. E ti usiamo come gancio, sì, per lanciare adesso su questo palco una grande attrice, una di quelle attrici che sanno emozionare ma anche far ridere. Grazie Miriam. E quindi vi lasciamo, è pronta? Sì, sì, oh, sì, è sì, qua. C'è? Anna c'è? Gaia, ci Anna sei? Gala. Sono qui, sono eccola, qui. Eccola, è di là, è sul palco. Anna Gaia Marchioro. Grazie. Vai. Ciao Milano. Sono Anna Gaia. Sono una donna. Sono una madre. E sono lesbica. Sono il peggiore incubo per la Meloni dopo il 25 aprile e il suo ex compagno Gianbruno. Vorrei tranquillizzarla riportando quello che diceva mia nonna. Ai miei tempi mi insegnavano a cercarmi un uomo e ho scoperto che a me bastava un cognac. Allora, per sopravvivere a questo governo, lo dico da veneta, ci vuole un fegato così, ci vuole un fisico bestiale, ci vuole una grande resistenza! Ah, grazie. Allora, sono cresciuta negli anni 90. Negli anni 90 la parola lesbica non esisteva o era usata come un insulto. Secondo me invece è un complimento, vuol dire che sai fare due cose: amare le donne e parcheggiare contemporaneamente. E questo teniamolo a mente. Allora, in Italia la mamma è la prima cosa, ma se sono due vanno tutti fuori di testa. La Meloni si chiude in una stanza e comincia a vomitare, devono chiamare l'esorcista. Allora ci vuole una grande resistenza, perché dobbiamo rivendicare i diritti di chi non vuole diventare madre. E lo dico da genitore, i figli sono come la grappa, li devi volere davvero, altrimenti non li reggi. Io, grazie. E questo rispetto all'aborto e la 194, io conosco bene cosa significa, cosa prova chi desidera avere un figlio, ma proprio non riesco a capire chi desidera che tu abbia un figlio e non siete manco parenti. Allora, se poi sei una persona single come me o una coppia omosessuale come me a volte, soprattutto in primavera, se tu vuoi un figlio ti trattano da criminale. Capito? Ce lo vietano in tutti i modi. E io quando l'ho scoperto, perché ho iniziato il mio percorso per diventare madre, per la prima volta ho desiderato essere inglese, danese, olandese, svedese, islandese, irlandese, spagnola, tedesca, portoghese, greca e francese. E devi veramente essere disperata per voler essere francese, perché poi lo sai che ti odiano tutti. Cazzo. Allora, grazie. Ci vuole una grande resistenza a sfatare il mito di questo governo sulla natalità, perché io dopo essere diventata madre ho scoperto che dovevo chiedere la maternità da partita IVA e che non era una pratica amministrativa, era un rito di stregoneria. Ho un'amica partita IVA che deve ancora ricevere la maternità e la figlia c'ha 18 anni, fa l'università. Deve cominciare uno stage, sapete dove lo farà? All'INPS. Credo per rivendicare sua madre. L'unica misura che ha istituito questo governo sulla natalità è lo sgravio per le madri lavoratrici. Mi sono informata, devi avere un lavoro a tempo indeterminato, due figli sotto i 10 anni, un reddito ISEE sotto i 40.000 euro, il cognome che comincia per S ed essere del segno della bilancia. Allora, appena mia figlia è nata, ho cercato di iscriverla all'asilo nido, ma non sono entrata in graduatoria, perché, spoiler, negli asili nido entrano i bambini più anziani. E lo giuro, questo secondo me è un'ottima metafora dell'Italia. Abbiamo un posto per l'asilo nido ogni 4 bambini e mezzo al nord e ogni 9 bambini e mezzo al sud. Il mezzo, peraltro, non ho ancora capito come te lo dividono. Però spero che te lo ricompattino. Finito l'asilo, porca troia, suo figlio. Allora, ho provato per un anno e mezzo a fare smart working con una neonata in casa, però a fine giornata io parlavo monosillabe e lei telefonava al mio commercialista. Quindi ho chiesto al comune di Milano che se l'anno prossimo lei non entra all'asilo, almeno all'asilo, facciano entrare me. Ok? Peccato che abbiamo perso col PNR 100.000 posti di asilo nido, di quelli che già non avevamo. Allora, la grande diciamo, ideata di questo governo per la natalità, secondo me, è aumentare il costo degli assorbenti. Ok? Perché quando hai un figlio non ne hai bisogno. Una si fa due conti. Però vi avverto, hanno aumentato l'IVA anche sui pannolini per bambini, il latte in polvere e i passeggini. La Meloni ha detto, beh, già costavano tanto. Non ha senso, ora costano di più. E io soprattutto ho questo problema da comica. Oramai parlare di natalità è diventato un tema di nicchia. Io avrei più follower se parlassi di manga giapponesi. Quindi alla Meloni vorrei un risarcimento, almeno un prosecco ce lo dovrebbero offrire, cazzo, noi genitori. O no? Allora, una cosa che ho scoperto da mamma, soprattutto, è che io rivedo mia figlia in tutti i bambini del mondo, da Gaza all'Equatore, perché ogni bambino al mondo si assomiglia e ogni genitore lo crede un genio, e lo crede un genio a suo modo, tranne mia figlia che è veramente un genio. Ma soprattutto non ho ancora capito perché ci preoccupiamo così tanto dei prodotti che mettiamo sul culo dei nostri bambini se poi gli lasciamo un mondo di merda. Allora, io voglio guardare in prospettiva e l'unica prospettiva possibile è una prospettiva ecologista transfemminista. Siamo partigiane non perché disattendiamo le vostre aspettative, è che le vostre aspettative non esistono, non ci appartengono. Noi vogliamo un futuro, è per questo che oggi è sempre resistenza. Grazie. Anna Gaia Marchioro, grazie Anna Gaia, Anna Gaia Marchioro. Super, fantastica Anna Gaia, grazie. Adesso Paola, un gruppo musicale punk rock. Ci vanno giù pesanti. Da Torino, chi sono? Un gruppo antifascista in acustico. In acustico? Ci sono? Qua. Sì, sono loro. Giusto, Full Brigade! Ci guardano malissimo. Sì. E allora? Allora Milano come va? Noi siamo i ragazzi di Torino. Perfetto. Che siamo venuti in due solamente per onorare e rispettare questa richiesta. È un grande onore per noi essere qui su questo palco in una modalità anomala per noi, però cercheremo di fare del nostro meglio per rendere speciale questa giornata. Grazie di cuore a tutti i ragazzi dello staff e a tutti voi che siete intervenuti. Adesso te lo devo sbloccare. Perché è bloccato. Vai. Passano i giorni e non capisce più la strada presa dove finirà, quale destino in serbo c'è per lui, che cazzo ancora gli succederà. Ha visto amici scivolare via, ha fatto cose immaginate mai, certezze diventare una bugia, ha visto gioie diventare guai. Invece un giorno poi si accorge che ha un'altra faccia a questa verità, conta gli amici ancora intorno a lui, pensa alla vita quanti scherzi fa, e la vendetta tornerà così ad abitare tra i pensieri suoi, mentre ascolta l'unico CD che bastonava il cuore degli eroi. E ancora sognerà quel tempo che non tornerà, strade sbarrite nell'oscurità, e ogni lacrima versata sa che lascerà segni che il tempo non cancellerà dietro di lui. E notte solo sarà dietro il freddo che fa. Solo il buio di periferia, L'ultimo treno se n'è andato già, come in una vecchia fotografia. Rimane solo quella sua città. E allora pensa a quel momento in cui bastava la presenza della crew. Sogna gli infami tutti intorno a lui e il caldo abbraccio della sua tribù. E ancora sognerà quel tempo che non tornerà. Ed ogni lacrima versata sa che lascerà mai più. Grazie ragazzi di Milano! Allora, questa sera siamo qua con Diego da Treviso e vi introduciamo una canzone che parla di rabbia per tutti quelli che negli anni, come noi, non l'hanno mai confusa. Vai maestro! Se tuoi perché, forse la notte di periferia, qui con ogni lacrima caduta ormai, è come un sogno da gettare via, il tempo sembra ridere di te, per quel che dici, per quel che fai, ma questo vento ci travolge ancora, forse non sei cambiato mai, oh ora puoi riconoscerla. Quella rabbia che scoppiava ad ogni sguardo della gente su di te, non potrai mai nasconderla, mai confonderla. Troppo lontana fosse la realtà che ti raccontavano i vecchi eroi, quando sognavi ancora libertà sotto quei palchi e concerti oi. Come diversa era la tua città, non riconosce la verità cos'è, ma nel tuo cuore lo stesso sangue. Cosa è successo mai? Oh ora puoi riconoscerla. Quella rabbia che scoppiava ad ogni sguardo della gente su di te, non potrei mai nasconderla, mai confonderla. Puoi riconoscerla, quella rabbia che scoppiava ad ogni sguardo della gente su di te, non potrai mai confonderla, basta chiedersi perché, ciò che conta è solo chiuso dentro te, dentro te, dentro te. Dentro te, dentro te, dentro te, dentro te, tu è chiuso dentro te. Grazie. E allora ragazzi, questa la prossima la dedichiamo a tutti gli antifascisti, ed è un tema che riguarda un po' tutti quelli che hanno questo spirito, questo ideale, questa roba indomita dentro il cuore, questa mesta cerimonia degli addii. Si chiama Cuori Stanchi perché siamo veramente stanchi di questa eterna notte che ci attanaglia. Cercheremo il caldo di quei giorni che non tornano più. Dentro un parco a freddo passa un altro inverno e io ci penso ancora di stanotte che non vuole più fermarsi come facevi tu. Con i pugni stretti e con il sangue agli occhi della vecchia scuola. Forte dentro te questa vita che non sai come fa a portarci avanti dritti contro il vento. Dimmi cosa c'è. Grigio lunedì di guai. Siamo cuori stanchi a guardarci dentro. Si avvicina il giorno in cui solo i ricordi resteranno di noi. Schiacce di memoria conficcate a fondo nelle nostre vene. Come macchine impazzite gli anni stanno correndo pure per noi. Non badare al tempo, sempre dentro il vento resteremo insieme. Forte dentro te questa vita che non sai come fa a portarci avanti dritti contro il vento. Dimmi cosa c'è. Che c'è lunedì di guai. Siamo cuori stanchi a guardarci dentro. Allora le mani, forte dentro te, questa vita che non sai come fa a portarci avanti dritti contro il vento. Dimmi cosa c'è, grigio lunedì di guai, siamo cuori stanchi, forte questa vita che non sai come fa a portarci avanti dritti contro il vento. Dimmi cosa c'è, che c'è lunedì di guai, siamo quasi stanchi di guardarci dentro, di guardarci dentro, di guardarci dentro, di guardarci dentro. Grazie ragazzi di Milano. Non è semplice essere in due su un palco così. Questa è Motor City, parla di passare tutto il dannato fottuto giorno nella stessa città a guardare la strada. Freddo il cemento, capie di malinconia, dal ventre di questa fortezza non si scappa via, e quel grigiore che non ti abbandonerà, scura la foiba ti divora, e un mostro la città. Quaranta ore a settimana frenesia, le truppe marciano, la nostra vita è una bugia, raccogli il grido, la riscossa arriverà. Una speranza non c'è ancora, eppur bisogna andare, andare, andare, andare, andare. C'è una canzone che potrà salvarci da questa vita in cui tutto non va, e mille notti senza addormentarci. Entra nel branco, cancella gli stenti, resta con noi, prigionieri di un sogno, dentro notti così. Motor City! Ritornerà la pioggia nelle versità, uniti resteremo. Nulla potrà piegare questa integrità, sempre la sentirai sognare, è la nostra città. Città, città, città, città. C'è una canzone che potrà salvarci da questa vita in cui tutto non va, e mille notti senza addormentarci, Torino è ancora la nostra città. Entra nel branco, cancella gli stenti, resta con noi, prigionieri di un sogno, dentro notti così. C'è una canzone che potrà salvarti da questa vita in cui tutto non va, e mille notti senza addormentarci, Torino è ancora la nostra città. Entra nel branco, cancella gli stenti, resta con noi, prigionieri di un sogno, dentro notti così. Motor City Pancheschi. Grazie! Eugenio, ho bisogno di un fonico, ho una latenza incredibile. Quello che faccio va arriva in ritardo sulla spia. E anche veloce, anche veloce. Juventino pezzo di merda. la la la la la la la. Perdi tempo navigando dentro a sogni che non realizzerai. Mattina te a male di la notte prima, le strozzate che fai. Tu e tua madre sempre più distanti, e la fabbrica che ti incatena. Torni a casa con quegli occhi stanchi, punk, si chiama la tua pena. Ma quanti sbattimenti hai? Te lo sei chiesto ancora? Che sogni di andar via, ma poi non sai scappare. E questa vita non è più mia, tu non la sai cambiare. Mai, ai, ai. No, non la sai cambiare mai, mai, mai. Vent'anni tu eri alto piano e son pari, come la gestirai? Quanto bianco mescolato col Campari per non pensarci mai. Scendi in gol e finge di calmarti, troppo amaro come questa vita. Corri forte senza mai fermarti, punk, vuol dire non è finita. Ma ti sei visto come stai? O non l'hai fatto ancora mai? Che sogni di andar via, ma poi non sai scappare. E questa vita non è più mia, tu non la sai cambiare. Ma non la sai cambiare mai, mai, mai. Time relentless moving forward. Fighting daydreams of a different time. 14 years of heading nowhere. Clinging to the booze and dragging on your ball and chain. No escape, a useless train. And losing for your way of life. Che sogni di andar via, ma poi non sai scappare. E questa vita non è più mia, tu non la sai cambiare. Tu non la sai cambiare mai, mai, mai, mai, mai. Grazie ragazzi di Milano! Grazie! Almeno insieme a voi è un po' più facile, no? Perché per noi è veramente complicated, dai. Questa canzone si intitola Perduto amore. Che ritorni e vai via. Capelli corti, rabbia dentro di sé, con quei 20 anni che non riesce a dominare, nella città cui più speranza non c'è, sotto i palazzi tra le trombe delle scale, stringe gli affibi di coscienza e follia, dentro quei gesti forse ricorderai, di noi sballati e persi in mezzo alla via, e di quel tempo che non torni indietro mai. E il tuo pensiero torna al momento in cui c'era una scena e non soltanto le rovine, i nostri sguardi in mezzo ai vicoli bui e i nostri cuori oltre ogni limite e confine. Non queste mura di leggende e realtà oltre le quali nulla resta di noi. Cosa racconti a tuo cuore quando il mio nome pronunciare non puoi? E quanto è grande il cielo di questa città e la malinconia che ti travolgerà. E quante spine ancora scoprirà il destino e quanta rabbia dentro gli occhi dura sto cammino che ti riporterà tra la nebbia fitta di questa città, dispersa negli scazzi tra noi, parli poco coi tuoi e poi lei. Compagna, dove sei? Questo silenzio vuoto e senza un perché è un labirinto da cui non riesco a fuggire, come la rabbia che ci fece schine spingevi i cuori costringendoci ad ardire, come quel disco che ti trasporta via dal sacro suono della sola città che tiene sotto scacco l'animo mia. Chi è che salvarla mai potrà? E la malinconia che ti travolgerà e quante spine ancora scoprirà il destino e quanta rabbia dentro gli occhi duro sto cammino che ti riporterà tra la nebbia fitta di questa città dispersa negli scazzi tra noi, parli poco coi tuoi e poi lei. Compagna, dove sei? E le mani? Amore che ritorni e vai via, come i miei sbagli che non capirò mai, e quanto immensa questa periferia, senza sapere cosa fai, e quanto è grande il cielo di questa città, e la malinconia che mi travolgerà, e quante spine ancora scoprirà il destino, e quanta rabbia dentro agli occhi, duro sto cammino che ti riporterà. Tra la nebbia fitta di questa città, dispersa negli scazzi tra noi, parli poco coi tuoi e poi lei, lei, lei. Grazie! Grazie ragazzi di Milano! Solo il fuoco, quindi sì. Ah, ok. Ok ragazzi, ci dobbiamo andare, eh. Ti ricordi di noi sotto quei palazzi tutti uguali, gioventù affilate come rasoi nelle fabbriche di quei maiali, spezzando il fiato ai nostri giorni senza possibilità, figli marchiati non conformi di questa cazzo di città che a noi non ci ha voluto mai. Dannati come i nostri guai, scritti a vernice sul cemento, nel drappo il vento, il fuoco non si aspetta, nostro tormento. sospetto brucia ancora in noi. Tornerete a chiedergli perdono, l'obelisco dice. L'astrolabio dica il nostro suono, fiera la mole che sorride verso il colle degli dèi, perché tra vivere o morire abbiamo scelto sempre lei. Che a noi non ci ha voluto mai, granata come i nostri guai, scritti a vernice sul cemento, le drappo il vento, nostro tormento. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Il fuoco non si è spento, il fuoco non si è spento, il fuoco non si è. Il fuoco non si è spento, il fuoco non si è spento, adesso che stacca si spegne la città, e a noi che cosa resterà di questa notte senza tempo, nel drappo il vento, il fuoco non si è spento, nostro tormento, nel drappo il vento, il fuoco non si è spento, nostro tormento. Grazie ragazzi di Milano, grazie di cuore. Ad Ax e a tutti i miei amici, il ricordo di quei giorni genera ancora dolore e preoccupazione nel mio cuore. Grazie, Bull Brigade, grazie. Acustica. Ma c'è lei? Grazie, ragazzi. Ah, okay. Super. Va bene. Cori da stadio. Vieni. Sempre di più. Bull Brigade è per te. Bull Brigade, no, avete scaldato, no, il grazie. Pubblico. Vabbè. Unplugged. Continuiamo con l'unplugged. Un applauso. Possiamo a voi. Togliere la corrente. Vabbè. Grandi. Grazie al coro. Allora, al ragazzi, coro ragazze. Ok ragazzi, scusate, la scaletta stringe e dobbiamo andare avanti. E adesso è un momento intenso. Intenso. Allora, vi chiediamo un po' di attenzione. Ragazzi, siamo qua, stiamo parlando con voi, please. Ok, sul palco di POQ è sempre stato presente il teatro. C'è un ultimo pezzo teatrale che vi presentiamo, estremamente forte e delicato allo stesso tempo. Ultimo intervento teatrale, abbiamo con noi Barbara Apuzzo che sta prendendo possesso del palco. E intanto Barbara, diciamo che ci porterai un pezzo di Ausmerzen, Vite indegne di essere vissute, uno spettacolo prodotto dal Teatro della Cooperativa, scritto da Marco e Mario Paolini, Michela Signori. Grazie. E Giovanni De Martis. La regia è di Renato Sarti, con in scena Barbara e Renato. Renato Sarti, lo sapete, è una colonna portante di Partigiani in ogni quartiere, ma questa sera non può essere qui fisicamente, ma è qui con noi, con tutto il suo cuore. Allora, Barbara, ci presenti un pezzo forte. Racconta brevissimamente il primo sterminio di massa nazista. Prima degli ebrei, i nazisti sterminarono 70.000 tedeschi tra malati mentali, portatori di handicap, disabili, bambini affetti da malformazioni, ma lo lasciamo. Sì, vi chiediamo un po' di attenzione, è l'ultimo pezzo teatrale, poi ovviamente andremo di musica, ma Barbara Apuzzo ha qualcosa di estremamente importante da raccontarci. A te Barbara. Un applauso. Un applauso. Ausmerzen.